All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. E ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Che settimana è stata? Cliccate subito la cena dei regini su www.bach.it. Pausa musicale e torniamo. E ragazzi, bentornati alla cena dei regini, www.bach.it, cliccate la cena dei regini, commentate questa puntata della cena. Adesso passiamo finalmente al nostro ospite, un regino che è emigrato a Roma, in quel di Roma, promotore dell'iniziativa Suona Reggio Suona, che è nata dopo l'incidente del Museo dello Strumento Musicale, iniziativa che si terrà il 16 novembre alle 16. Nel centro di Reggio Calabria presentiamo Saro Poppi Lanucara. Ciao Bacco, bentornato. Ciao carissimo, come stai? Ciao. Bene, bene, tu? Io alla grande, qua sei magna, quindi meglio di così non mi può. Che sei stato un ma in questo momento pizza con varie escursioni di patatine e Nutella, che però vabbè, tralasciamo. Sembra un ritual caffè. Per quelli che stanno a casa. Se vogliamo iniziamo a raccontare di questa iniziativa Suona Reggio Suona, come nasce? L'iniziativa nasce dallo stomaco. Mi sono accorto seguendo sui social che era successo l'ennesimo fatto brutto in città, dopo l'esperienza del cartello che avevo visto bruciare l'anno scorso, anche lo strumento musicale, il museo dello strumento musicale, ho saputo essere stato vittima di un attentato, perché è stato evidente fin da subito leggendo i giornali che di attentato si trattava, essendo solo forte di poi alla fine tipo, resistere all'idea per fare iniziativa sul web, ho creato l'evento, come te l'ho detto, di stomaco, per farci troppo, poi alla fine ho fatto il comunicatore, quanto pare, e mi è venuto spontaneo creare iniziativa. Iniziamo a dire. Perché immaginavo fosse bello. Ok. Io ci sento scappi. Purtroppo anch'io, perché Skype non ci viene mai incontro. Ma abbiamo subito dei riferimenti da dare a chi ci sta ascoltando e vuole comunque incuriosirsi della cosa? Quale, un sito internet o qualcosa? Abbiamo sia il sito internet che abbiamo costruito oggi insieme a degli amici di Sport Impossibile, vorrei ringraziare Roberto Calabro, Mario, l'indirizzo è www.suonareggiosuona.it. Suonareggiosuona.it. Potete trovare tutte le informazioni. Cosa? Suonareggiosuona.it, ripetevo il dominio. Ok, e quale sarà? Potete trovare tutte le informazioni per la manifestazione e anche l'iniziativa partita su Instagram, in cui invitiamo tutti quanti a postare 6 secondi di video con strumento musicale per fomentare ancora di più l'iniziativa. Parteciperemo assolutamente. Quale sarà il programma dell'iniziativa? Se c'è, hai creato un profilo, un'idea di quello che succederà, e soprattutto per chi vuole partecipare, di cosa c'è bisogno? Guarda, è molto facile, l'idea era appunto quella di riuscire a portare in piazza le persone di Reggio. Io quando ho avuto l'idea dell'iniziativa ho immaginato di invitare le persone che di solito non escono di casa, mi sono immaginato di voler riuscire di casa con uno strumento musicale, un cucchiaio, una pentola, una qualsiasi cosa posso fare burberlo. L'invito è stato ben accolto dal Museo dello Strumento e dal suo direttivo. Ci siamo dati appuntamento tutti quanti a Piazza Italia alle 4 del pomeriggio di sabato 16, quindi 16 alle 16, che ancora è una cosa non mi ero tirato fuori come refrain. La cosa bella è appunto questa, che sembrerebbe che troveremo in piazza tanti reggini che di solito non escono più di casa. Certo, e quindi penso che sarà, se succede, sarà più grande. Certo. Ma una domanda più personale, tu come ti stai preparando all'iniziativa e cosa ti aspetti di trovare là esattamente? Cioè, fai 2 ore di palestra, una di pesi? No, forse 2 ore di palestra ho fatto tutta la mia vita accompagnando qualcuno che ci deve andare. Io sto preparando il pacco. Io sto scendere, ho voglia di scendere, voglio vedere Reggio, comunque sento la mia città fare casino, non mi sto preparando, sono un po' intimorito, forse non volevo tutta questa attenzione su di me. Credo l'importante sia mettere l'accento sui reggini, e forse è la prima volta in 30 anni che li vedo reagire in blocco in maniera eterogenea. Chiaro. Senti, eventualmente per chi ancora ci sta ascoltando ma è lì a dire vado o non vado, forse perché no, ma chi me lo fa fare, non faccio queste cose, uno slogan per fare partecipare il reggino medio che è all'ascolto, una frase? Io uno slogan non ce l'ho, quello che ti posso dire è che ti posso paracasare un qualcos'altro, se non era quando quelle ragazzacce che tra l'altro incontrerò in questi giorni per altri discorsi. Ma finiamo come sempre con la domanda che faccio a tutti i reggini, soprattutto quelli che sono altrove. Se Poppi fosse sindaco di Reggio per un giorno, quali iniziative attueresti subito? Quale sarebbe il punto, secondo te, di svolta per migliorare e cambiare la città? Innanzitutto credo che il comune di Reggio Calabria si dovrebbe costituire parte civile in tutti i processi contro l'Ndrangheta e contro la mafia, come primo atto di cambiamento, visto che l'ultimo atto è stata una connivenza spicciola. Sì. Quindi prima poi si va dalla parte del top. Tra l'altro in queste ore stanno occupando Palazzo San Giorgio, ho saputo, quindi... Stavo seguendo, sì. C'è un'autogestione. Lì detto. Autogestione. Reggio è una città fantastica. Comunque, ragazzo, ci vediamo per l'iniziativa. Ringraziamo il signor Poppi per la sua partecipazione. Ci vediamo in strada, quindi. Ci vediamo a Reggio il 16, alle 16 a Piazza Italia. Questo applauso è per te, per quando tornerai. Ok? Grazie di aver partecipato. Basta tutti. No, grazie a voi per l'occasione. Basta che non. Niente, lascia spazio. Questo è Skype che ci tradisce. Ragazzi, adesso un piccolo spazio musicale, a tra poco. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Quante cose abbiamo fatto questa settimana? Tantissime. Sofì lascia il posto a Panda. No, lei è abituata a avere questi privilegi. Lo so, la vita è dura senza l'Aus. www.back.it, clicca la cena dei regini, contattaci, commenta anche tu questa puntata incredibile come tutte le altre modestamente. Adesso parliamo di quello che abbiamo fatto questa settimana. In particolare con Eugenio siamo andati al mercatino del chilometro zero. Che esperienza bella è stata? Esperienza bellissima. Cosa ti ha lasciato? Cioè un'immagine che porterai con te di questo mercatino. Le? Puoi parlare tranquillo. Le? Tanta gente che c'era lì. Tante, le bancarelle, quindi le cose. E poi quelle persone. Le migliaia di gente. No, non erano proprio migliaia, però comunque è andata abbastanza bene. Abbiamo fatto un po' di conoscenze. In particolare salutiamo le ragazze di ActionAid. Che hanno fatto una campagna contro la fame molto importante, pare che ci verranno anche a trovare nelle prossime settimane, e quindi è stata un'iniziativa molto particolare, molto, molto bellina. Il ragazzo mi si è scatenato anche al volantinaggio, e gli abbiamo, l'abbiamo istruito al contatto con la gente, ed è stata veramente una bella domenica. Ricordiamo sempre. Quando è arrivato la prima volta qua, diceva non voglio parlare, voglio rimanere là nell'angolo. Un applauso, dai! Ci sta dando parecchie soddisfazioni questo ragazzo. Non voglio essere nemmeno interrotto quando cerco di dare volantini a dettagli. Altra notizia di questa settimana, i racconti della città di Gri. Questo racconto che scrissi per Scuola di Pace, la missione umanitaria è partita sabato scorso, i ragazzi stanno andando in Turchia a dare aiuto ai ragazzini siriani, farli giocare e portargli degli aiuti umanitari. Sei contento? È particolarmente commosso. È vero, credo che lui è l'unico degli occhi. Si vede che... non ti preoccupare, puoi ancora donare 2 euro comprando il racconto oppure direttamente a Scuola di Pace tramite il loro sito internet. No, perché poi nascono delle situazioni poco piacevoli, però lo puoi fare, ancora l'iniziativa è valida, chi vuole può appunto donare direttamente o comprare il racconto per 2 euro tramite il mio sito internet. Ragazzi, continuiamo con un piccolo spazio musicale. We'll be right back. Ragazzi, la cena dei regini, passiamo alla consueta, consueto angolo della classifica. Questa settimana i 10 vicini di casa che non vorresti avere. Eugenio, Andrea. Come vicini di casa? Entrambi. Se non a parte loro due. Al numero 10, il vicino che ti mette in soggezione. Andrea. Quello che ha lo sguardo un po' arcignola, che è un po' così, che ti guarda sempre così. Mi preoccupi. Il vicino che ti osserva. Il vicino che ti osserva. Il vicino che sa che hai messo il maglioncino pesante perché quel giorno ti sentivi occhi. Il vicino che sa che hai fatto qualcosa. Non sa cosa, ma lo sa. Ma lui lo sa e ti guarda e ti fulmina col suo sguardo arcignal. Numero 9, il musicista, che più delle volte è un pianista, che è quello che si esercita. E guarda, ti la mettono anche, metti che se fosse un batterista. Che è peggio. Oddio, parliamone. Io c'ho il ballerino di breakdance come vicino. Bello! Fantastico. E fai rumore coi piedi. Fa casino, non c'è altro da aggiungere. Fantastico, fantastico. Ognuno ha l'artista come diceva di casa. Vedi? Il peggiore è il cantante che non fa cantare, che prendeva le stecche assurde. Alla numero 8, la friggitrice come se non ci fosse un domani, quella là che frigge tutto in cucina, ovviamente finestre aperte in maniera da sparare fuori tutto il miasma ai vicini. E beh, Andrea, domenica ne abbiamo avuto un bel assaggio. Sì. La frittura che deve arrivare bello, potente a tutti. L'odore, quel che ti impregna la casa, tutto. I capelli. Oh, questi sono gli unici vicini che dopo che hanno inventato il caffè senza zucchero e tante cose senza latte, tante cose, questi sono i vicini che inventeranno un giorno la parmigiana senza la melanzana. Ci proveranno, riproveranno anche la versione light, ma il vicino che frigge solitamente adora. Frigge tutto. Adora. Cibo, tende, divani, tutto dove si può friggere. Ma non ti vengo, non mi viene incontro. Ovviamente, praticamente. E poi il numero 7, grande classico, il vicino che c'è il cane. Che poi come si può sentire? Ma io non ho vicini, ho i cani ma non ho vicini. E quindi non rientro nella categoria. Ma dipende, cioè, dei cani tranquilli, che sono cioè normalmente quelli più grandi sono anche quelli più tranquilli. Ma quelli piccoli, tipo il chihuahua. Che sono i volpini. Non si è perché abbaiano, all'improvviso. Ma con quartieri orario. Sì, ma sono questi, sono questi. E non c'è cosa, peggiore quando abiti in un condominio, il cane caga in mezzo alle scale e non la raccolgono. Non la raccolgono. Ovvio. Perché? Perché è lo spazio pubblico, tutti devono partecipare. Tutti devono partecipare. Cioè, allora facciamo così. Dovevo dire chi era. Davanti al suo porto e cagargli in mezzo alle scale. È come un dungeon, è la trappola quello. No, il classico scherzo che si fa da Halloween negli Stati Uniti. La cacca nella busta, si da fuoco la busta, si bussa e si scappi. Quello per spegnere la busta a fuoco inizia a pestare la busta e si ritrova la scappola di merda. È un classico. È vero, molto famoso. In America è uno scherzo per tutto. Per dare fastidio, per ripicchi, Halloween. Sì, però non può essere per tutto. Anche per gli insegnanti. Questa è un'idea per rivalersi sui. Allora ti spiego, rientra tu di sei di successo e fai cosa? Ragazzi, alla numero 6, l'organizzatore dei mondiali per biglie. O comunque quello là che ha questi oggettini che fanno questi rumori un po' particolari. E quindi si diletta. Mai! Cioè. Non lo so questo. Non avete vicini che giocano con le biglie, ragazzi, veramente è incredibile. Ma perché dovete disturbare? Andrea, le biglie. Niente, hai finito. Che peccato, allora andiamo avanti. Alla numero 5, ci siamo tutti, i vicini che hanno appena avuto un figlio che ovviamente piange ogni notte. Quello è un classico, il bambino. Allora, a Pisa. avvisano il... Allora erano tutti a tavola a mangiare e ogni due sentivo il bambino che piangeva. Un incubo. Sempre. Quello è... Ma non è stato vicino ovunque. Sei in giro, senti il bambino piangere. Stai dormendo, senti il bambino piangere. No, vabbè, ma se sei in giro è un discorso. Cioè, tu cammini, ti passa a casa e te ne vai. Ma se sei a casa a farti i cazzi vuoi, e quello ti piange. E se sei al bar? Che stai prendendo un caffè? Ma è una cosa temporanea, capisci? Invece averlo come vicino è una cosa... E tra l'altro io aggiungerei anche quando i bambini sono un po' più grandi e senti la madre che gli sgrida, è terribile, perché ti becchi tutte le cazziate che invece andrebbero ai bambini. Che la maggior parte dei muri anche fatti tipo sono sottili come la carta e si sente tutto. Non fate figli. Detto questo, alla numero 4, il bambino che cresce diventa un vicino che non supporta i rumori. Che al minimo rumore salta, no? Fate casino! Quello è vecchiettino! Della scopa che ti batte sopra, oppure varie esperienze avute anche qua in passato, che lasciamo stare. Non fate casino! Passate la musica! Chiamano i carabinieri! Figli di puttana! Usate il sostanzio! Ce l'abbiamo le orecchie, troie! Andrea, non essere volgare! Ragazzi, alla numero 3, il vicino che ha l'hobby del fai da te. E questo comunque secondo me ha anche un minimo di utilità, voglio dire, ragazzi. E ovviamente il tuo Eugenio si è riconosciuto in questo. Anche tu hai l'hobby del fai da te. Parecchio. Mattina pomeriggio. Ah sì. Sulle tue foto. Io che fa un bricolaggio, prende le foto, le appiccica. Non riesce. E poi c'è. Perché se tu hai un vicino che ha l'hobby del fai da te. Sì. E gli metti i vicini. Sono. Questo non facciamo domande. Comunque, c'è anche un uso pratico del vicino che ha l'hobby del fai da te. Sì. Perché comunque ti costruisce. Ah, è all'hobby del fai da te. Se stai a 2000 km da me, sei vicino di casa, se fai il fa da sé. Ma comunque, però, relativamente, ragazzi, alla fine stare fino usare anche più il trapano. Per ore non è una cosa carina. Poi dipende a che ora. Eugenio, tu hai un serio problema. Mi avviso, dai, che muore. Tu hai un serio problema, sappilo. Da quando c'è Eugenio, la scena della regina è diventata una trasmissione pornografica. Pornosonica. No, ci sono dei doppi sensi in tutto alla fine, mi sembra anche. Lei ci vuole essere così. Cioè anche io li becco, però me la sto zitto. E comunque numero di 4 secondi di ricomponiamoci. Ok, al numero 2 il vicino che non saluta mai. Questo è un... Ecco, il vicino che non saluta mai, solitamente è corrisposto da una persona che è particolarmente comunque amichevole, che vuole avere un contatto, un dialogo con l'altro, e lui niente, non ti saluta, non ti cerca, non ti vuole praticamente, ti rinnega come vicino, non c'è alcun motivo. Assoluto. Cioè, è maleducazione principalmente, dopo del genere. Purtroppo funziona molto così. No. Ognuno c'è. Ognuno ha le sue abitudini, però capita, il vicino magari è anche un po' introverso, tra virgolette, comunque. Semplicemente. Sì, ma quei vicini tipo che arrivano. Addio. No, e lui va avanti, cioè non c'è nessun contatto. Tu resti. E va così. Aspetta un attimo. Allora, per voi è peggio quello che non saluta o quello che saluta tu gli dici come stai e sei già andato? Beh, sicuramente è peggio quello che non saluta, cioè tu lo saluti almeno lo salvi, dalle, e la cortesia. E comunque in entrambi i casi siamo là, cioè penso che resti così in entrambi i casi. Resti così in entrambi. Forse nel primo caso, quando proprio non c'è contatto, almeno non ci resti così male. Quando resti e se ne va, è peggio. C'è una delusione insita nella situazione. Ma la numero uno, ragazzi, il vicino per eccellenza, soprattutto il regino per eccellenza, sì, è il vicino in piccione. quello che capta tutte le informazioni. E Reggio qua, e Reggino qua, e ovunque. Che sia a casa, che sia per strada, c'è un incidente e vedi tutti i Reggini puntare lo sguardo verso l'incidente. Sono in macchina, ti girano, guardano e te ne vanno. I vicini Reggini, soprattutto quelli più anziani, fanno... cioè, le comari farebbero invidia alla reazione di studio aperto. Le comari che ti incontrano e parlare. Sì, c'è questa, il famoso trittico per strada, e ti chiedono: sei fidanzata, stai lavorando, tua sorella lavora, tuo fratello lavora, quanti figli ha? Tutto vogliono sapere. Nell'arco di... ma le incontrati una volta e li ha salutati dopo tutto. 2 minuti e mezzo. C'è sempre quel trittico di 60 anni che comunque sta là a esplorare tutto, a captare tutto quello che succede nel vicinato. Dice in picciola: se lo conosci lo eviti, altrimenti ti gossip, finisci nei suoi racconti. Però fa parte dell'abitudine regina. Tra l'altro, che ultimamente... si creano certe sensazioni imbarazzanti quando appunto il vicino in piccione non è che è magari spettegola tra quelli del condominio o altri vicini. No. Magari va dal barbiere del quartiere, dove vanno magari tutti quelli del... dell'isolato, quindi anche quelli dello stesso palazzo, e quindi, cioè, quindi non solo il vicino sa tutto di te, ma anche il barbiere, certo, dal quale certo vai sempre. Ma ormai c'è la multimedialità, si va da Belen fino al parrucchiere, al barbiere, la cosa, c'è tutta la scala sociale. Ragazzi, scriveteci anche voi a cenaiocciolobac.it il vostro vicino chi è, cosa fa. Se ne avete un esempio vicino, ovviamente. Magari se volete parlare di qualcuno ne avete vicino, certo, senza fare nomi, ovviamente. Tutto in totale anonimato, e se avete segreti scottanti che possiamo rivendere anche noi agli Stati Uniti, io sono certo, siamo regini quindi ufficiali. Invece, visto che gli Stati Uniti hanno questi rapporti. Adesso un piccolo spazio musicale. Ship run. E ragazzi, era la cena dei regini, che questa settimana prendiamo le nostre cose e ce le andiamo a casa. Abbiamo mangiato alla grande, come si chiama, cheesecake, pizza, veramente ce la passiamo veramente buoni. Vuoi essere ospite della cena dei regini? Scrivi a cena@ilbac.it. Perché devi venire qua? Cosa hai da raccontare? Racconta la tua storia di vita, la metteremo in radio e sarà bellissimo parlarne con tutti quanti. Ragazzi, ci vediamo settimana prossima in radio e su YouTube in versione video. Un saluto a tutti, un applausino. Così. Svegliamo per digerire un applauso.